esatto, siamo ancora a Piazza San Giovanni, la piazza è stracolma, si è riempita di tantissime persone, si è riempita di tanti cartelli e bandiere delle lotte, appunto le lotte che sono scese oggi in piazza, dalla lotta per il diritto a lapidare alla lotta contro il TAV, contro il MUOS e quant'altro. Il camion diciamo, è già predisposto per partire e dicevo, la piazza è ancora piena, la gente comincia a predisporsi a muoversi, però in realtà stiamo aspettando che ci raggiungano i compagni e le compagne, i precari e le precarie che sono stati bloccati con i pullman. L'ultima notizia che abbiamo è di una decina di pullman bloccati al casello sud dell'autostrada provenienti da Milano, da Bologna e da Bergamo, per cui chiaramente vogliamo muoverci appena arrivano loro, non vogliamo muoverci lasciando nessuno indietro. Abbiamo visto in questi giorni i dispositivi di sicurezza messi in campo dalla questura di Roma, abbiamo visto la campagna stampa terroristica lanciata nei confronti di questa giornata. Per fortuna evidentemente le ragioni delle lotte sono più forti di qualunque cosa e quindi la piazza si è riempita nonostante il clima appunto che si era intorno alla giornata del 19 chiaramente adottiamo lo slogan valsusino, si parte, si torna insieme, quindi la piazza prima di muoversi aspetta l'arrivo che tutti e tutti siano arrivati per muoversi insieme. Senti, vogliamo un po' così raccontare di nuovo le ragioni di questa manifestazione, per così mettere un po' da parte questo discorso sul clima scuro che ci hanno creato sopra? Sì, e magari appunto per invitare anche chi ci sta ascoltando a raggiungerci. La manifestazione è sintetizzata nello slogan che è poi lo striscione di apertura, che è una sola grande opera, Casa dei Redditi. È una manifestazione che è stata lanciata il 1 di giugno dalla Rete Abitare della Crisi, che è una rete nazionale realtà di movimenti che sono in lotta sui territori, il sistema del diritto alla casa, chiaramente il diritto alla casa declinato non come semplicemente la necessità di avere un tetto sulla testa, ma nei termini della necessità di riprendersi un pezzo di reddito indiretto, nei termini della necessità di riprendersi la città stessa, di non essere espulsi dai centri, di non essere costretti ad andare a vivere, a lasciare le città, ad andare a vivere fuori dal raccordo, eccetera, nei termini del non cedere al ricatto degli affitti, al ricatto degli sfratti, al ricatto degli sgomberi. Chiaramente questo messaggio che è stato lanciato dalla Rete Abitare della Crisi nel 1 di giugno ha intrecciato immediatamente tantissime altre reti che sui territori lottano appunto sui temi che dicevamo prima, primo per tutto la questione del reddito e la difesa dei territori dalle devastazioni, dalle speculazioni, eccetera, quindi chiaramente si è intrecciata immediatamente con il percorso NOTAV, con cui chiaramente si condivide l'idea di fondo, che è quella appunto della necessità di difendersi dall'attacco del capitalismo e del neoliberismo sui territori, un attacco che chiaramente poi ricade immediatamente sulle vite di decine di migliaia di persone, e ha incontrato chiaramente tantissime altre realtà e movimenti appunto che dicevo hanno come parole d'ordine ma anche come pratiche quelle della riappropriazione, la riappropriazione della casa, del reddito, di pezzi di territorio da sottrarre dicevo all'aggressione del neoliberismo e dei meccanismi speculativi, per cui appunto immediatamente a luglio l'appello lanciato ad abitare nella crisi è stato raccolto e rilanciato da quell'assemblea che è stata chiamata dalla valle alle metropoli, che poi ha costruito il percorso del corteo, un percorso dicevo che si è arricchito anche di altri passaggi, come il passaggio avvenuto sul Monte Agnata, dove tante reti a partire da quella per l'acqua pubblica, dai comitati contro le discariche, gli inceneritori, eccetera, appunto insieme abbiamo costruito questa grande giornata che chiaramente vede il protagonismo dei precari, delle precarie, degli studenti, delle studentesse che tutti i giorni pagano il prezzo della crisi e che non sono disponibili né a come dire, ad accettare tutto quello che sulle nostre teste questo governo delle larghe si sta immaginando di fare o già fa, insomma, quotidianamente, e che soprattutto hanno deciso di lanciare un segnale chiaro. Il segnale chiaro è che noi non abbiamo paura e che pensiamo che sia necessario riprendersi una piazza, tant'è che oggi l'obiettivo politico della giornata, ragionato da tutti, appunto quello della necessità di riappropriarsi anche di spazi pubblici di discussione che possano mettere in relazione tra di loro le lotte e possano immaginare sin da stasera, sin da domani, sin dai prossimi giorni nuovi percorsi di lotta da dispiegare sui territori. Sì, e riprendersi reddito e riprendersi anche una, come dire, possibilità di vivere lavorando e non di morire lavorando. Ieri mattina, percorrendo il corteo dei sindacati di base, si vedevano molti compagni e compagne con il sacco a pelo che quindi si facevano il bis tra ieri e oggi in due manifestazioni evidentemente molto vicine. Sì, tra l'altro, appunto, dopo aver lanciato questa giornata del 19 è arrivata l'indizione dello sciopero da parte del sindacalismo conflittuale. Chiaramente sono due piazze decisamente in sintonia, la piazza di ieri, anche il corteo di ieri chiaramente è stato partecipato dagli stessi manifestanti che oggi stanno in piazza. Ieri sera ci sono stati momenti di discussione nella piazza di San Giovanni, una piazza appunto che anche lì in maniera forte è stata ripresa dopo appunto il 15 ottobre, una giornata in cui invece è avvenuta una fortissima repressione all'interno di quella piazza, per cui anche simbolicamente forte l'indizione da parte della dei sindacati di base della piazza di ieri sera, e il fatto appunto che la manifestazione di oggi stia tenendo da qui chiaramente segnala una forte continuità nei contenuti e la forte volontà chiaramente di iniziare dei percorsi condivisi che rendano più forti di tutti e tutti. C'è stata tantissima gente che ha trascorso la notte qui e bisogna dire che il clima della piazza, ripeto, al di là della cappa mediatica nera che si è costruita intorno alla manifestazione, anche stamattina quando per esempio alcuni giornali hanno riportato notizie di divieti in alcune zone che precedentemente erano state autorizzate, chiaramente non corrispondono al vero, e appunto dalla risposta di decine di migliaia di persone che hanno raggiunto la piazza chiaramente la dice lunga sul clima che c'è in questo paese e sulla voglia dei precari e delle precarie di uscire dall'isolamento e non pagare e non accettare passivamente le misure di austerity, appunto, che la BCE con i governi complici, appunto, a partire da quello delle larghe intese stanno immaginando appunto di imporci e di appunto le nostre teste. È una piazza appunto piena di contenuti, è una piazza determinata a dire che ha voglia di arrivare al Ministero delle Infrastrutture, a portare lì l'assedio e a rimanere in quella piazza per continuare a discutere e a dispiegare questa potenza che si è venuta a creare appunto in questa piazza, che è una piazza allegra perché è una piazza che ha la gioia delle lotte, perché è una piazza piena di precari e precarie, dicevo, che tutti i giorni stanno in lotta sui propri territori, sui posti di lavoro, difendono il diritto all'abitare e che quindi, dicevo, portano innanzitutto la gioia delle lotte con sé e la gioia della condivisione. Grazie per questo tuo intervento, ci sentiamo più tardi e buona lotta, buona grazie manifestazione. Ciao.